Se ci dovesse essere una crisi, bisognerebbe votare. Perché questa cosa del governo tecnico, sia Berlusconi, la Lega, anche oggi Sacconi, viene considerata inaccettabile politicamente? Noi l'abbiamo sempre ritenuta inaccettabile sia quando abbiamo vinto le elezioni sia quando le abbiamo perse, quindi le abbiamo ritenute inaccettabili nel 1995 e le abbiamo ritenute inaccettabili nel 2008 quando il governo Prodi cedette il passo ai due governi D'Alema prima e poi il governo Amato. Perché? Perché siccome durante le campagne elettorali della cosiddetta Seconda Repubblica al cittadino elettore è chiarissimo chi viene chiamato a fare il Presidente del Consiglio, con quale maggioranza, con quali partiti che lo sostengono, qualsiasi cambiamento successivo è un qualcosa che noi riteniamo non corretto nei confronti dell'elettore. A questo si aggiunga che nel caso di oggi, in cui si discute oggi, sarebbe ancora di più ribaltone, nel senso che il Popolo della Libertà, la Lega Nord, Berlusconi Presidente vincono le elezioni 2008. Gli stessi rimangono tra di loro alleati e si paventa, diciamo, un governo diverso. È come se nella cosiddetta Prima Repubblica il Presidente della Repubblica desse il mandato, avesse dato il mandato al Partito Comunista Italiano che aveva perso le elezioni.